È la notte giusta e ne verranno altre e altre ancora. Deve succedere. Miami è una città fantastica. Adoro la cucina cubana. I panini al maiale sono i miei preferiti. Ma ora ho fame di qualcosa di diverso. Qua. Buonasera, buonasera, buonasera. Di nuovo qui a una nuova puntata degli Spacciaserie. Grazie. Pier, ti senti più largo stasera, un po' più... Sì, da questa mezz'ora qui, sì, in effetti è strano. Peccato, cioè, a me manca. A me manca Marco, però. Manca a me, un po' è qui, che tanto a quest'ora comunque lui non c'era. Sì, quello è anche vero, però diciamo, era bello cominciare con lui che cominciava, cioè, ciao ragazzi, faccio... E poi sparava vaccate, cose a caso. Ora vabbè, invece potremmo siamo quasi obbligati a non, a non dire vaccate, invece dobbiamo dirle anche noi. Ok. Sei d'accordo? Mucca. No? Vabbè, non in questo, cioè Marco le diceva meglio, bisogna dire. Ammettiamo che Marco era più bravo. Vabbè, questo si sapeva, non è un problema per cui. Ok. E quindi che puntata è questa? Questa è la puntata estiva, no, però è la puntata 25esima, innanzitutto cominciamo con i numeri, io so che a te piacciono i numeri. È la puntata numero 25. Perché a te non piacciono? Allora dico vabbè, mo non lo dico, però. Ma tu dillo, lasciati, okay. Esprimi. Puntata numero 25. Perfetto. Quarto di secolo. Vabbè, questo io non l'avevo pensato, però vabbè. Puntata estiva, dicevamo. Mm-hmm. Perché estiva? Perché? Perché vi diamo i consigli per l'estate, anche se non è l'ultima puntata. Cioè uno si aspetta, uno ci dà i consigli per l'estate, è l'ultimo. E invece no, noi siamo originali. Perché noi siamo proprio diversi da tutto il resto delle trasmissioncole che ci sono in giro. Che oggi salutavano l'ultima puntata. Oh. Noi continuiamo, stoici. Imperterriti. Per un altro paio di puntate. Paio? Sei sicuro di paio? Più o meno. Secondo me è un'altra, però no, se no, tu dici paio. Paio? Paio. Dovrebbe essere paio. Paio che dice così, allora. Comunque, noi che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che... Wow, che tappetino musicale. È quello mio preferito. Ormai lo metto sempre, anche a casa, mentre faccio le pulizie. Bravo. Comunque, abbiamo detto, ma... Diamo a questi nostri fantastici web ascoltatori qualche consiglio per cosa guardare quest'estate, cioè quando noi non ci siamo, visto che più o meno la maggior parte delle serie si ferma, esatto, mandano repliche, eccetera, noi vi diamo i consigli per qualche serie nuova da guardare. Esatto, visto che ci sono anche, c'è tutto un mercato di serie estive che di solito noi non trattiamo perché magari hanno temi più relax, cioè più tranquillo, estivo appunto, cioè stai lì tranquillo, friendly, non sai che cacchio guardare, non è una cosa impegnativa. Invece noi oggi dimostreremo che anche tra le serie estive c'è qualcosa che può essere impegnativo. Esatto. Ma anche qualcosa che può essere proprio... Sì, cioè, vabbè, noi diamo tutto, no. Noi siamo qui e trasmettiamo a tutto spiano, qualsiasi cosa, a flusso di coscienza. Lasciamo andare quelle che sono le trasmissioni belle, le fiction brutte. Noi ve le diciamo, ve le proponiamo, ve le critichiamo e poi voi fate le vostre scelte. Ok, perfetto. Allora, abbiamo preparato, abbiamo qualcosa tipo 10-12 serie di cui parlare, però non è che chiaramente... Cioè, se ce la facciamo. Sì, cioè noi ce l'abbiamo qui. Parlare poi, accennare. Accennare. Esatto. E sono un po', diciamo, su tutti i generi. Diciamo che copriamo una buona fetta di generi alimentari, di serie TV. E quindi io direi, senti, cominciamo e iniziamo a parlare di una serie. Vai te, vado io? Vai tu che ti vedo pronto. Ok. La serie di cui vorrei parlare è una serie, è una miniserie in realtà, molto estiva perché sono soltanto 6 puntate. Oh, il tappetino abbassato. No, solo nelle cuffie. Ah, ok. Perché era troppo rimbombato. Ora va meglio, sì. Sono soddisfatto. Wow. Allora, è una miniserie, si intitola The Prisoner. Il prigioniero. La esatto. So, sono l'inglese, signore. Ma chi vuoi fregare? Anche Mario Politicaz lo sa. Ah sì? Mario sì. Politicaz cosa vuoi anche dire? Anche Autoscrisoner. Poi ce lo scriverà. Ce lo comunque scriverà. Tanto l'ho già detto io, che lo dice a fare. Ma magari non ci ascoltava. No, è attivo, lo vedo. Insomma, The Prisoner è una miniserie, 6 puntate, solo che tratta sei. Di... È veramente estiva tutto ciò. Sei puntate è il tipico target estivo. Sì, proprio quella cosa easy. Tranquilla, easy, molto così. Ok. Fatto di un prigioniero. Questo prigioniero chi è? È un agente segreto che però non si ricorda nulla del suo passato. Si risveglia in mezzo al deserto. Cammina un po' e incontra una città. Inizia a chiedere informazioni, ma non riesce a capire un tubo, sostanzialmente. Ok. Ok. Per non dire altro. E scopre che lui si chiama Sei. Ogni persona all'interno di quella città si chiama con un nome. Con un numero. Con un numero, sì, scusa. Il nome ha un numero. Sì. Ok. E comunque. Lui... Siccome mi dai un lancio così perfetto e voglio interrompere subito perché abbiamo parlato già tanto, ti mando una canzone che si intitola Ti ho già detto il mio nome. Sei d'accordo? Vai. Ma che lanci. Nei tuoi progetti eccezionali mi piaceva quello di comprarti un cane avanti con l'età e registrare un disco e tirato. Vorrei non perdere l'ultimo metro e vorrei citare Truffaut. Allora, wow. Come ti è sembrato questo pezzo così che... Bello. L'ha chiamato Sei, cioè nel senso non io, effetti, è il The Prisoner che chiamava il pezzo. Era proprio adatto. Vorrei dire a chi ci sta ascoltando che la colonna musicale di questa serata è un po' diversa rispetto al solito. Sì, non è tratta da serie TV, è tratta dalla mia colonna sonora personale di quest'anno. Come ho detto, è una puntata quasi conclusiva, ho detto metto musica che piace a me. Bravo. Ho detto scusate. No, vabbè, mi sono lasciato andare, però dai, una volta ci sta. Di solito siamo sempre ligi al dovere, sempre lì tutti dalla serie, quella serie. Basta. No? Lasciamoci prendere dalla tangente. Okay. Mettiamo musica che ci piace. Mi sembra giusto. Ok, continuiamo a parlare di The Prisoner. Allora, altre due notizie. Allora, intanto, è un remake di una serie del 67, per cui non penso che mediamente l'abbiate vista. E il genere è dato per drammatico e di fantascienza, ma anche se di fantascienza ce n'è veramente poca. Però c'è un sottofondo interessante. Un tappeto di fantascienza. Un tappetino di quelli proprio giusti. Il tappeto è quello. E cos'altro dire? Ce l'avete anche in lingua italiana, se proprio non ve la volete vedere in inglese. Guardatevela. Quindi è di qualche anno fa? È del 2009, sì. Ah, ecco. E tra i vari interpreti c'è Ian McKellen. E chi è? Te non lo conosci? Cioè, se mi dici che altro ha fatto, magari. Ad esempio Il Signore degli Anelli. Guarda, te lo faccio vedere. È lui? È lui? Ah, ho capito. Gandalf. Ho capito. Gandalf fatto del Signore degli Anelli. Harry Potter, cioè, fatto tutti, Harry Potter. Tutti i ruoli con la barba li fa lui, diciamo. Sì, no? In realtà qui non ha la barba. Ha i capelli corti e è rasato. È barba free. È barba come free. Direbbe Seba, che ormai ha lanciato questa moda in radio. Esatto. E, altre cose da dire su questa cosa, ma è molto psicologica come serie. Cioè, entra proprio nella mente di questo di Sei. Di Sei. Perché sei come sei. Sì, e va bene. Quindi questa è The Prisoner, abbiamo incuriosito, speriamo, i nostri ascoltatori. E per il resto passiamo a parlare di un'altra serie. Vai. Questa volta la propongo io. Vai. È una serie che sta andando in onda oggi, però in generale in questo periodo qui dell'anno. È in America, sta uscendo. È una serie del filone legal. Ecco, legal drama. Però è un legal drama simpatico. Questa è la differenza. Simpa legal drama. Esatto, non so se si dica il funny, fa funny legal drama. E questa serie di cui stiamo per parlare si chiama Franklin and Bash. Franklin and Bash. Ecco. Di cosa parla? Essenzialmente ci sono questi due avvocati. Sì. Franklin e Bash, che sono amici da non so quanto tempo, dall'elementare, non lo so da quando sono ma amici. Ma sono due uomini. Sono due uomini. Ah, Franklin, ok, uomo. Bash Franklin pure. Franklin è uomo, Bash è uomo. Okay. Non mi chiedere i nomi perché... Ah, perché sono i cognomi? Sì, chiaramente. Come in tutti gli studi di avvocati si chiamano per cognomi. Gli avvocati non li conosci mai per nome. Gli avvocati si conoscono per cognomi. È una regola. Okay. Io, cioè, mi danno la legge, la laurea in giurisprudenza e il mio nome viene Martelli. Cancellato. Sì, non c'è Tommaso, chi è Tommaso? Martelli. E basta. L'avvocato Martelli. Dunque, cosa succede? Qual è la trama? Ci sono questi due sfigati, cioè sfigati nel senso che non lavorano per un grosso studio, uh-huh, e conducono cause più piccole, se le procurano le cause, tipo causano incidenti e poi vanno lì e fanno: non si preoccupi, è colpa dello Stato, noi la difenderemo, venga da noi, danno il bigliettino, Franklin and Bash, e loro hanno questa casa in cui giocano, si divertono, stanno sempre lì alla PlayStation con la chitarra, strimpellano, fanno, non sono delle persone serie essenzialmente, e c'è questo humor americano in cui ci sono queste battute doppio senso che è fatto molto bene. Poi naturalmente, per aumentare tutto il pathos la cosa, c'è il fatto che vengono presi da uno studio grande, okay, con tutti gli associati che li guardano male, perché dice: ma perché il capo ha preso questi qui adesso a lavorare per noi, mm-hmm, che non ci sembrano dello stesso livello nostro, sono degli sfigatelli. Però loro, con il loro stile dissacrante, mm-hmm, ironico e così alla mano, riescono a portare quasi sempre, ora io ne ho viste soltanto alcune di puntate perché, come vi ho detto, che sta non uscendo è in onda adesso, cioè ci stiamo perdendo la puntata, esatto, tipo adesso devo scappare a casa perché c'è Franklin and Bash la sesta puntata, no, e comunque e comunque quindi diciamo riescono a portare a casa la causa, sempre questa cicci che torna, e guardatela perché secondo me merita, ok, l'ho detto così in breve, non detta male. Adesso direi di mandare un pezzo, un bel pezzone. Guarda, allora, ti mando questo pezzo perché il 5 luglio del 2011, ovvero qualche giorno fa, due giorni fa, esatto, cioè martedì, c'è stato un super concerto. Ah sì? Di chi? Sì. Se ora te lo dico, no, te lo dico. Il concerto era a Ferrara, quindi un altro indizio, vediamo se dalla chat qualcuno capisce. Non lo capiscono. E la chat bene, ci sente indifferita. Vabbè, ma te lo ricordo. Lo so, però dovrebbero essere attivi, capire di cosa dove sto per arrivare, non ci sono arrivati. Okay. Dunque, il 5 luglio a Ferrara, sotto le stelle, c'era un concerto dei National. The National. Aperti dai Beirut, che sono due bei gruppi che a me garbano personalmente. Sì, sarò strano io. Beirut. Sì, tra l'altro sold out, quindi non sono l'unico stupido a sentire questa gente. Vorrei dirlo al mio coinquilino che mi insulta sempre perché dice: ascolto gruppi improbabili. E tra l'altro mi ironizzava sul fatto che io volessi andare a questo concerto. Poi ci sono andato per questioni di studio. Perché diceva: i Beirut versus National, cos'è, la quarta guerra mondiale? E vabbè, insomma, c'è chi non apprezza. Ma io adesso vi faccio ascoltare i Beirut con Elephant Gun. Buon ascolto. Beh, io direi di tornare su questa fantastica canzone che a me piace tanto. Okay. Tra l'altro, se non l'avete fatto, guardatevi il video, perché è poesia, cioè veramente è fatto, cioè a me piace, sarà che a me questa tromba così che arriva e così ti racconta la storia. Bello. Questi piedi immersi nell'acqua, quest'acqua fatta da è bello. Tra l'altro, per tutti quelli che ci stanno soltanto ascoltando e non ci stanno seguendo in chat, abbiamo appena pubblicato I video delle canzoni che stiamo mandando sulla nostra pagina di Facebook, esatto, che ricordiamo è Gli Nome, spaccia serie cognome. Grande, grande, grande. Poi a breve ci dovremo fare anche un account su Google Plus. L'invito a Google Plus. Io ce l'ho. È brutto animale, ancora devi invitare la gente, tutti i nostri radiociclisti ascoltatori devi invitare, tutti, devi invitare, a cominciare da me perché sono tuo co. Allora, diciamo anche questo, se qualcuno è interessato a un account di Google Plus, ci scriva un messaggio privato sull'account di Facebook con l'indirizzo email. Esatto. E noi gli provo a mandare l'invito. L'invito. Perché non sempre funziona, perché hanno ancora un po' di problemi, sono un po' in test ancora. Eh sì, sono in fase beta, leggero. In fase beta, però è simpatico, divertente, è carino. Sì? Sì. Quindi dobbiamo fare il nostro account di spacciaserie anche lì. Sì. tanto la mail ce l'abbiamo, che è gli spaccia serie @gmail.com. Vedo che ci capiamo. Mi lancio da solo, è inutile, sono andato, sono pronto, vai. Abbiamo altri modi per contattarci? Non lo so. Skype, chiaramente Skype. Gli spacciaserie tutto attaccato, tutto minuscolo. Cercateci, aggiungeteci. Se volete partecipare al quiz di questa sera, che non sappiamo se ci sarà, ci sarà. Se voi vorrete partecipare, contattateci. Aggiungete gli spacciaserie tutto minuscolo, tutto quanto. E noi vi manderemo in diretta e vi faremo le nostre fantastiche domande. Quindi partecipate. Ricordiamo inoltre che c'è sempre il solito concorso che ormai da 3 settimane va avanti. È quello della canzone che decidete voi. Sul nostro profilo abbiamo pubblicato tre video di 3 canzoni differenti. Ben prima di cominciare la puntata, esatto, non quegli ultimi. L'ho fatta ieri l'annuncio, poi non ha cagato nessuno. Però io l'ho fatto ieri, ci tenevo a dirlo. E qualcuno ha già votato. Io vi dico che la canzone che sta vincendo è Moschetta. Se non volete ascoltare questa canzone bellissima, tra l'altro, potete però ancora controvertire tutti i sondaggi, tutte le votazioni, votando fino alle 9. Diamo tempo fino alle 9 e un quarto, dai. Il tipico orario, le 9 e un quarto. E quindi continuate a votare. Nel frattempo, ora Tommy, tocca a te. Parlaci di un'altra serie TV estiva, o comunque leggera, leggiadra, o quello che vuoi tu. Dicci okay. Dicci tu. La serie di cui vi voglio parlare adesso è una serie, in realtà è una coppia di serie, perché c'è una versione statunitense e una versione originaria inglese. A me personalmente piace più la versione inglese. Una serie di fantascienza, perché come ben sapete a me interessano molto più e piacciono molto di più. Sì, io invece non la guardo quasi per niente, ma va bene, cioè nel senso è bello avere questi gusti differenziati. Infatti, perché il nostro pubblico così può apprezzare pubblico tutto. Variegato degli spacciaserie. La serie si intitola Being Human, che mi insegni, visto che tu sei l'inglese, significa... essendo umano, traducendo proprio letteralmente. Sì, più o meno una roba del genere. Il concetto... Io guardo un'altra serie che si chiama Being Erica. Pensa tu. Essendo Erica. Sì, cioè diventando riconoscendosi Erica, cioè capendo in profondità chi è Erica. È bello. Un giorno ne parleremo, ho già l'ospite pronto, quindi wow. Che non sei tu. L'anno prossimo. No, non sono io introduco. Quindi agli spacciaserie 2.0. Esatto. Ok. Allora, Being Human è una, sostanzialmente è una commedia drammatica, horror. Cioè sono, sai, quelle accoppiate un po' strambe, no? Che a volte si ritrovano un po' come il funny legal drama di prima. E questa è una commedia drammatica horror. Ok, tratta. I protagonisti principali sono 3. 2, 3. E si chiamano 1, 2, 3 come no, la serie. No, pensavo. No. Magari ti piacevano proprio nomi... tanto le serie con i numeri che... I nomi ora mi sfuggono. Ah, eccoli. Sono John Mitchell, George Sand e Annie Sawyer. Ah beh, non c'entra niente. Questi nomi proprio l'altro Sawyer di Lost. Ah, io pensavo a Tom Sawyer. Neanche. E sono rispettivamente un vampiro, un licantropo ed un fantasma. Io ste cose sui vampiri che vanno tanto di moda in questo momento, non ne vedo nemmeno. È completamente controtendenza. Ah, sì? A... Sì, è interessante da questo punto di vista. Cioè, ci sono questi 3. Fantascienza, hai detto. Ma più che altro è un finto horror. Un finto horror? Ma sì, cioè, ma che filone è? Ti racconto un po' la storia, no? Vai. Ah, ci stanno questi i primi 2, il vampiro e il licantropo, che sono amici. Ora, come tu ben sai, i licantropi tendono ad avere un problema. Un problemino. Ululano e una volta al mese. Non è quello il problema. Tendono ad essere un pelino aggressivi, no? Sì, capita. Capita. Sometimes. Ma non è colpa loro. No, infatti non è colpa loro. Allora, lui trova difficile. C'hanno la luna storta. Tra l'altro, luna storta a breve. Vabbè, lasciamo perdere queste citazioni. Inef diceva problemi di peli? Che ci può stare? È una pubblicità. Si vede il licantropo e poi appare la marca anche. Delle... Comunque, cosa succede? Del silk e pil, che ne fa? Fa male per il povero licantropo. Ma dai, no, eravamo non volevo un programma serio. Scusa. Comunque, stavo dicendo. Questi 2 trova difficilmente un coinquilino, no? Beh. Allora, per pagare l'affitto, cosa fa? Trova casa insieme al vampiro. No? Geniale. Come si sono trovati? Sulle pagine gialle c'è scritto... E così si spalleggiano a vicenda, no? Che perché il vampiro, uno ce l'ha in testa lì che non può uscire al sole, no? Invece lui esce tranquillamente. Ah. Non ha problemi. E sui generi. Si mette soltanto l'occhiale da sole. I Ray-Ban. No, perché io ho un ascoltatore che vorrebbe piazzare dei Ray-Ban scuri. Se volete dei Ray-Ban scuri, chiedete a me. Poi io vi metto in contatto con lui, che è anche in chat, è anche uno dei nostri speaker. Ok, quindi sappiamo tutti chi è. Però esatto. Va bene, andiamo avanti. Ogni tanto ti incontri di... Vuoi un paio di Ray-Ban? Ok. E quindi trovano casa. A un certo punto ne trovano una ottima, un prezzo proprio veramente stracciato. Cioè che gli stracciano il contratto? No, no. Il prezzo era proprio poche sterline. Ah, pochi pound. Perché? Perché in quella casa ci abitava un fantasma. E quindi fanno la triade. E quindi fanno la triade. Solo che la questione qual è? Che mentre gli umani normali e il fantasma non possono vederlo, loro sì. Loro sì, perché non sono umani. E quindi la conoscono, Annie, che è il fantasma della ragazza morta lì, uccisa dall'ex fidanzato, compagno. E lei com'è? Contenta? Beh, mica tanto. All'inizio perché? Li vuole cacciare di casa. Ma no. E poi piano piano invece sono simpatici, entrano in sintonia. E è molto ma divertente. Ma lei com'è? Interessante. Ah, ecco, quindi ha capito cosa volevo dire con il mio come. Bravo. Sì, è un personaggio interessante nella sua introspezione, chiaramente, no? Introspezione. Io ero più interessante. Ma no, no, ma vai, continua con la trama. Questi tre, ecco, quindi diventano amici? Ah, all'inizio no. No. Appunto, vabbè, sì, all'inizio c'è lei che cerca di cacciarli. E poi in realtà scoprono che stando insieme riescono ad essere più umani. Proprio questo being human. Quindi capi, è un divenire. È un divenire, cioè il, l'essere, cioè loro volevano per forza essere present uguali agli altri. Continuous, direbbe la mia professoressa. Wow. Andiamo avanti. Andiamo l'essere avanti. Uguale agli altri. In questo essere uguale agli altri, il fantasma, Annie, riesce a diventare quasi corporea e si riesce anche a farci vedere da, dagli umani. Ma quindi è loro tutto... portano degli ospiti a casa? Sì. Con che coraggio? Ma perché il loro peloso. Vogliono essere umani. Il ma vampiro. Non è peloso sempre. Che tra l'altro lavorano insieme all'ospedale, il vampiro e il peloso. Il vampiro perché ci trova le sacche di sangue. Geniale. E oh, perché sennò è un macello. E il licantropo perché? E il licantropo perché c'ha, gli ci serve la ceretta gratis. No, gli serve il lavoro. Era meglio in farmacia. E vabbè. Ah. E poi lui ogni mese si prende 3 giorni di ferie, tipo. Perché il giorno prima, il giorno della luna piena e il giorno dopo. Perché sono 3 giorni comunque con una storta tutte e tre. Esatto. E che poi fa? C'è tutta in casa la fantasma. La casa la distrugge la... lui. Ma c'è, cioè, è molto interessante. Ma è divertente. Io poi non lo voglio come coinquilino. Ora che sto aggiustando tutto quanto, che stiamo ripulendo un po' tutto, viene lui e mi distrugge tutto e non va tutto. Mica bene. Ma sì, gna, è divertente. Gna, gna, gna. Comunque guardatelo perché è molto divertente. Ora viene data come horror, ma è, vabbè, ora horror. È molto leggero comunque. Ma sì, c'è un po' di sangue ogni tanto. Ma sì, un po' splatter al massimo. Ma, diciamo. Sì, ma non è... Neanche, è proprio poco il sangue. Ma è un po' di salsa, è un po' di salsa sparsa lì. Ma e la vernice. Salsa si sa, il pomodoro sta bene su tutto. Ma allora, torniamo alla nostra playlist di quest'oggi. Stavamo parlando del concerto di martedì a Ferrara. Bene, i Beirut hanno aperto per i The National. Questo e è... quindi in mono The National ci sentiamo. È certo che ci sentiamo in The National. Che perché prima i Beirut che hanno aperto e ora The National. È chiaro. Che ma te li volevi scampare. Te li volevi scampare. Guarda che sono bravissimi. Ascoltiamo. Lui è bravissimo. Attenzione. Che cantano? Cantano Terrible Love dall'ultimo album. Che cioè, si chiama? More Terribile. Si chiama, ora non me lo ricordo, High Violet. High Violet. Alto violetto, non so. Ah, alto, no, ciao violetta. No, no, high, high come alto. Ah, come, high, come high. Me, no? Sono altissimo. Ok, va bene. Allora, sei pronto? Prontissimo. Io, cioè, lo confesso, potrei piangere perché di solito su questa canzone non lo so, mi commuovo. Spero di no perché adesso faccio lo stupido, sono in radio davanti a te, quindi mi metto vergogna. Ti imbarazza un po'. Però potrebbe succedere. Alla rimuccia. Terrible Love, National. Right. 2, 1 e risiamo in onda. Quanto è bella, quanto è bella. È vero, è bella, è bella. Mi piace, mi piace. Non ho pianto, no, no, è tutta una fiaba. Però è beh, ogni volta è un'emozione diversa. Wow. Oh yeah. Va bene. Quindi, torniamo a bomba. Adesso hai parlato tu, ora tocca a me. Ora Ari tocca e parlo io. Bravo. Di una serie che più leggera di così non si può. È una serie inglese questa volta. The British, come quella di prima. Come quella di prima, cioè questa volta rispetto a quello che ho detto io prima, che era americano allo stato puro. Mm-hmm. Cosa succede? Innanzitutto il titolo è lunghissimo e già da questo si capisce che gli americani non lo potevano accettare. Il titolo è... Ce la posso fare? The Increasingly... Aspetta, mi sono incartato, è la Coca-Cola. The Increasingly Poor Decisions of Todd Margaret. Che vuol dire? Che vuol dire? È le incredibili decisioni pessime di Todd Margaret. Che è il Todd nome. Margaret? Sì, si chiama così. Margaret è il cognome. Purtroppo c'ha questo, questa fortuna di avere questo cognome femminile. Todd Margaret. Allora, come funziona sta cosa? Allora, immaginatevi di essere in America, in un'azienda. Tu sei l'ultima ruota del carro. Sei lì che c'hai le cuffie nelle orecchie. Come adesso. Esatto, però sei un cuffie sfigate e stai ascoltando un corso di insulti. E stai lì che ti eserciti ripetendoli. Cioè io, per imparare a insultare le persone. Esatto, perché sei troppo mite. Tu sei troppo mite. Che hai la maglia a righe. Ecco, più cattivo però. Vabbè, ora non vi posso svelare tutto, però... Ora mi esercito. C'è questo qui, Todd Margaret, che sta lì a esercitarsi. A un certo punto passa il capo supremo di questa grande azienda che sta cercando di sbarcare in Inghilterra con una sua bevanda energetica, la Thunder Muscle. Vabbè, si chiama così. Che è prodotta in Corea. Ora, lasciamo stare. E niente, ascolta quest'uomo che sta insultando qualcuno e lui pensa al telefono, il grande capo, il grande boss, e dice lui sì che è uno con le balls, lui con sì, le... palle, ah. E lo posso mandare lì, in Inghilterra, perché secondo me lui potrà gestire veramente la situazione, far decollare questa Thunder Muscle, la bevanda del secolo, la bevanda che in Inghilterra sfonderà, perché in Inghilterra hanno bisogno di bevande, vanno tantissimo le bevande energizzanti, e quindi cosa fa? Ho paura. Contro tutto il parere del capo di questo qui, il capo più piccolo, che dice ma no, ma è uno scalzacane, non può fa niente, questo è un idiota, lo teniamo lì giusto lì. Vedi che non sta facendo niente, sta a parlare al telefono, non lo manda, non ti fida, non è buono. Lui dice no, tu sei un disfattista, io ti licenzio. E licenzia lui, la persona seria, e manda quest'altro, Todd Margaret, in Inghilterra. Ora, questa è la trama. Ok, cioè questo, più o meno. Questo, cioè, questo è l'inizio. Poi immaginatevi questo idiota che capita con questo faccione rubicondo. Ora lo cerco e pubblico una foto. Intanto tu parla. Eccolo, è questo qui se vuoi. Io te la faccio vedere sulla mia. È questo qua. Ah, ok. Quest'uomo qui. Questo è il capo. Questo è il suo unico dipendente. Questo io indico perché voi non potete vedere, però è bellissimo. E questo è quello che lui presume essere la sua ragazza, ma non lo sarà mai. Nel senso che lui presume essere, ma non lo sarà mai. Sì, perché lui ha tutta una visione particolare delle cose. Insomma, come funziona questa serie? Che principia con lui che è seduto alla sbarra in tribunale e il giudice che gli legge tutti i capi d'accusa assurdi. Tipo aver orinato in pubblico, aver osteggiato qualcuno, rapito qualcuno. Insomma, ha fatto qualsiasi cosa. Quindi ogni volta, ogni inizio di puntata inizia con questo flash forward e fa poi... Ah, è un forward. Sì, è un flash forward. E wow. Poi torna indietro e fa vedere 14 giorni prima, 12 giorni prima. Ogni puntata dura 2 giorni, diciamo, in sostanza. E fa vedere un po' queste cose qui. Io la consiglio perché è abbastanza stupida e divertente. È fresca, estiva, perché è l'assurdo proprio di queste, dell'uomo stupido di cosa può fare. Ma la domanda è: sì, le puntate quanto durano? Non vorrei andare a sbagliare, ma sono 20 minuti. Ah, ok. Allora, tranquillo. Allora, proprio stiva. Formato comico, fresh, diciamo, della comedy. Perfetto. Bene, dopo aver parlato di questa assurda serie. Serie TV che appunto ripetiamo è The Increasingly, io non ce la farò mai, The Increasingly, però è detto così, è un inglese bruttissimo, però accontentatevi. Poor Decisions of Todd Margaret. Ok. Dopo questa, visto che era una serie abbastanza strana, vi mando un pezzo strano che piace solo a me, che probabilmente conosco soltanto io, perché loro sono un gruppo islandese, sono gli Agent Fresco, La canzone si chiama Along Fresco. C'è bisogno, qui in questo studio fa un caldo. Agen Fresco servono. A Long Time Listening, buon ascolto. Oh yeah. Quella. Rieccoci. Ok. A me è piaciuto. Palla, a me è piaciuto il gruppone islandese, signori. Sì, non si ascolta raramente, si ascolta raramente, non si ascolta di frequente sulle radio italiane. Anzi, non credo sia mai stato passato, a dire la verità. Però comunque, un po' di agent fresco mi servirebbe. Sì. Torniamo a dirlo. Presidente. Signor Presidente, faccia qualcosa per questo caldo. Intervenga. Oh, ci consenta, figlio. Intervenga. Tra l'altro, potendo fare una pubblicità trasversale tra i programmi della bicicletta, volevamo sponsorizzare i politicazzi. Chissà perché lunedì, vabbè, noi lo sponsorizziamo sempre. Però i politicazzi lunedì prossimo avranno dei signori ospiti. Ma hanno detto che ci saranno Fazio e Saviano. Tutte e due? Sì. Ma proprio restano o vanno via? Questa è la domanda che tutti si pongono. Secondo me vanno. Dove? Via. Ma no, ma se vanno via politicazzi, forse loro restano. No, vanno via Fazio e Saviano. Dove? Boh, non lo so. Da dove vanno via e dove vanno? Cioè, vengono e poi vanno. Ah, dici? No, ma secondo me restano. Te dici? Ma mo vediamo. Mo vedremo. Comunque, vabbè, dopo questo torpiloquio. Ricordiamo che noi sponsorizziamo in realtà sempre tutti i programmi della radio. Perché stiate ascoltando radiocicletta.it. La web radio più bella nella quale lavoriamo. Vabbè, ora sì, esatto, questo non più bella, io non mi butterei su queste più bella nella giudizio. Quale lavoriamo. Esatto. Comunque, stavamo dicendo. Sì. A me la palla, altra serie TV. Vai, palla al centro. Vado con una serie TV un pelino più vecchia. Ma abbiamo detto una roba estiva, leggera. Ma è estiva, è leggera. In realtà non è leggerissima. Lo sapevo, è un uomo pesante lui, è inutile. No, però è bella. Spaccia è pesante. Si intitola mm-hmm. Veronica Mars. Ah, l'ho già sentita. Che non è Veronica da Marte. No, Veronica Marte. Veronica proprio. Mars. Ah. Cioè, proprio tipo il Mars. Ah, sai, proprio con che la merendina. Pubblicità, signori. State ascoltando Radio Cicletta, questa radio è sponsorizzata da Veronica. Puntini di sospensione. Ok, stavamo dicendo Veronica Mars. Mm-hmm. È, allora, la classificazione è teen drama. Ah, quindi ci sono i bambini. Ok. Gli adolescenti. Gli adolescenti. Noir. Sono pure di colore. Poi? Giallo. Anche i cinesi. Cioè, ci sono una commissione. Africani, cinesi insieme in questo teen drama. Adolescenti cinesi e no. Volevamo no. dire che invece. No, allora. È un giallo perché è molto thriller la questione. Lei è, funziona. Fa un po', diciamo, l'agente investigativa. Anche se ha tipo 16 anni. Quanto? 16 anni. Per questo è teen drama, signori. Esatto. E su che cosa investiga? Su cosa? Sull'omicidio. Mo cominciamo. Della sorella. Del fratello, no, del zio, no. Della zia, del nonno, del fratello. No. Sull'omicidio della sorella e del fidanzato. Ah, e se può fa? E di solito ci sono sempre quelle cose che no, non è eticamente giusto. No, che tu perché sia. Allora, cioè, in realtà non è che sono indagini ufficiali. Perché lei ha 16 anni, cioè, lei ha 16 anni, è minorenne. Ma sai, esistono tutte queste serie TV su questi consulenti bambini che fanno i consulenti della polizia perché loro vedono i mostri, vedono il futuro, vedono i morti. Insomma, ma quindi fantascienza non c'è niente. Solo che lei è sveglia, il padre è investigatore. Dormirà ogni tanto, altrimenti i cicli di notte e giorno non... 8 ore al giorno circa, ma a volte un po' meno. Brava, a volte un po' meno. Succede. È una bambina attiva, va in discoteca la notte. Sì. Oppure fa pedinamenti e cose di questo tipo. E già, ma lei tutte le puntate segue un caso diverso. Però c'è il caso che lega un po' tutta la prima stagione. La trama orizzontale. Esatto. È l'omicidio della sorella del fidanzato. Mm-hmm. Ma si scoprirà l'assassino. Sì. alla fine della prima stagione. Alla fine della prima stagione, sì. Che bello. E poi non avranno niente di cui parlare per la seconda. In teoria no, però che cosa succede? All'inizio della seconda stagione c'è un grande incidente e la classe di Veronica Mars, perché lei va appunto a scuola, alle superiori più o meno, metà classe muore. Come? Con un incidente in pullman. Ah, ecco. E quindi lei cercherà di capire perché. Fortunella lei. Lei dov'era? Non era in quel pullman. Lei non era in quel pullman. Te pareva, il solito. E lei capisce che in realtà non è stato un incidente, ha questa intuizione. E per tutta la seconda stagione cercherà di capire chi ma è. Capiranno tutti a lei, però. Cioè. Beh, un po', ma un po' come la Fletcher. Beh, la Fletcher era. È un livello po' come, una spanna sopra. Tutti un po' come gli Don Matteo. Ma no, a Don Matteo non succedono a lui, accadono ai parrocchiani. Ma neanche alla Fletcher succedono a lei, all'Amici. All'Amici. All'Amici. Alla Pisana. Ecco, parlando proprio di serie estive, una è la Fletcher. Beh sì, in effetti io ogni volta che torno a casa all'una e mezza, porca miseria, se non trovi la Fletcher deve esserci qualcosa che non va più nella RAI. Infatti, la RAI ha problemi. La RAI è un disco rotto, va sempre quella la... Bella la Fletcher. Beh, volta... bella ora. Cioè, lei non è tutto sto granché. No, la serie. Una volta parliamo di questa serie un po' più dannata che... Se troviamo... Dannate. Dannate serie. No, se troviamo gli ospiti adatti per parlare di Don Matteo, di cari web ascoltatori. Della signora Fletcher. Se siete intenzionati a partecipare... Ecco, tipo in chat... Subito assessore difende: non toccate Don Matteo, non te lo tocchia, anzi vieni a farci l'ospite, io te l'ho detto, assessore, vieni a fare l'ospite agli spacciaserie e ci parli di Don Matteo l'anno prossimo, tanto hai tutto il tempo, un mese per prepararti. Appunto, ma poi mica ha detto che devi venire il primo settembre, il 2. Appunto, quindi c'è anche un mese e un giorno in più. Ok, comunque va bene, torniamo a parlare un attimo di Veronica Mars, ma giusto un tantinino, un cicinino, vai. È molto divertente perché è un teen drama e quindi uno, ci sono tutte quelle solite paturnie che ci sono nei teen drama, no? Non so se vi ricordate che sono tipo Dawson Creek oppure VOC. Non li ho guardati. Vabbè, qualche puntata. Tra l'altro c'è gente che mi minaccia, dice: ma come? Non avete parlato di Dawson Creek? Oh, se volete venite, preparatevi, trovate gli spezzoni. Noi funziona così con gli ospiti. Noi vi facciamo fare il lavoro sporco, voi venite qua e vi insultiamo. Se siete disposti a fare tutto questo, fate, proponetevi, noi accettiamo chiunque. Il F è testimone di tutto ciò. Comunque, ecco, c'è tutta questa parte teen drama che però alla fine è molto esilarante. Cioè, perché è proposto come drama, però alla fine, cioè. Non, di dramma c'è poco. È funny anche questo. È fun. In fondo it's è funny. Comedy. Yeah, it's comedy. Ok. Basta Veronica Mars. Basta. E allora, abbiamo detto di Veronica Mars in drama. Io che cosa ci posso mettere qua? Guarda, non so proprio cosa mandare. Però posso mandare questo pezzo che è nuovo, fresco, che parla delle radio. Cioè, nel senso, parla del fatto che ogni uomo, ogni singolo individuo. Ho paura? Sì. Ha delle differenze dentro di sé, quindi per ogni uomo c'è una radio specifica, c'è un animo specifico. Sei d'accordo? Ma una radio nel senso che la radio cicletta non è per tutti? Ma no. Siamo una radio de sé? Ma no, perché noi tanto abbiamo tante trasmissioni, siamo poliedrici, abbiamo più espressioni di noi stessi, quindi chiunque può trovare la sua espressione in radio cicletta. E quindi noi adesso vi facciamo ascoltare, in anteprima forse per non molti, perché non tutti l'avranno sentita, dei Casino Royale. Ogni uomo una radio. Tony Don. Ogni uomo una radio. Ti è piaciuta? Mi è piaciuta l'ho scoperta da poco. Cioè, non è che c'è il testo dice ogni uomo una radio. Cioè, ora non è che... No, è che tu lo devi sentire anche la strofa. Cioè, ora non me la ricordo a memoria, però lo devi sentire. Ok, poi risento allora. E dunque, tocca a me questa volta. Ti sorprenderò. Ti parlerò di una serie che va in onda in America, però è un remake. E gli americani ce l'hanno questa storia, perché prima non si fidano e poi dopo dici: ma guarda il successo che c'ha avuto, la rifaccio. È vero. Però di solito da chi le prende, a chi fanno i remake? Di solito all'inglese. Stavolta no, perché io scelgo quelle più astruse, più assurde. Più assurde, perché sono sordi, non le sentono. Invece tu ci senti bene, volevo dire assurde. Dunque, da cosa l'hanno presa stavolta? Da chi? Dagli australiani. Cioè, ora tu mi stai dicendo che anche gli australiani fanno serie TV? Ebbene sì. Ma tipo Don Matteo? Don Matteo tra i koala? No, cioè, nel senso, forse faranno anche quella. Io no, quella non l'ho vista. Io sto guardando Wilfred. Wilfred. Cosa è? Chi è Wilfred? Cioè, Wilfred. No, no, Fred però... Futuro. Fred Futuro. Will, W-I-L-L. No, no, no, senza una L sola. Ah, Will. Tutto attaccato pure. Tutto attaccato, Wilfred. Ah. Wilfred, è un nome. È il nome di un cane. Bau. Vabbè, saprai abbagliare meglio, spero. Nella tua vita... vabbè, insomma, il primo andava meglio del secondo. Attenzione. Dunque. Wilfred è il cane di questa serie TV, però il protagonista non è il cane, è il coprotagonista il cane, perché il protagonista è questo... sta serie. Come te lo posso spiegare? Credo si chiami Ryan. Sì, Ryan. Allora, tu mi dici, il protagonista... Ryan. Si chiama Ryan. Ok, Ryan. Come inizia questo telefilm? Inizia con lui che si sta facendo un miscuglio di farmaci per cercare di suicidarsi. Buono. Lui è depressissimo. Non gliene va bene una. Allora fa questo mix, sì. Sperando che gli ha prescritto la sorella, perché la sorella è medico. Quindi lo aiutava a suicidarsi. No, la sorella glieli dava per curarsi. Però se te li prendi, ti fai l'overdose di questi farmaci, chiaramente bene non ti fanno. Dice. Allora lui si prende sti farmaci, ok? Si mette lì sul divano aspettando la morte. Nel frattempo suona la vicina. Lindlong. Esatto, una gnocca da paura. E lui dice: vabbè, allora vomitiamo. No, lui tutto. Non dice niente. Lui è lì visibilmente contento della vista, però allo stesso tempo dice: io devo morire ormai. Grazie signore che mi ha mandato questa visione celestiale sulle ore finali della mia vita. Moriamo in bellezza. Però, moriamo in bellezza, finiamo così, mi fai vedere cosa mi sto perdendo. Però io tanto devo morire. Ma la vicina cosa chiede? Chiede, siccome deve uscire e c'ha il suo cane, di tenergli il cane. Tenere il cane. Dunque, questo cane è Wilfred. E lui non lo vede come un cane. No. Lo vede come un gatto. Come un pupazzo umano. Cioè, sai quando ci sono quelli lì che si vestono da orsi, che si vede con le orecchiole così, tutti pupazzosi, pelucchiosi, no? Sì. Con la faccia che si vede che ha sembianze umane. Lui lo vede così, Wilfred. E cioè, lo riesce a capire. Cioè, lui parla mi fa paura. In inglese, chiaramente, però. In cane inglese parla. Sì, ma non abba, cioè nel senso possono dialogare tra di loro. E lui lui allora cosa pensa? Cavolo, sono state le medicine che mi hanno dato delle allucinazioni. Lo penso anch'io, che forse l'hanno date un po' anche a te. Comunque sì, vai. Allora cosa fa? Quando, vabbè, dice tanto lo devo tenere per una sera, fa niente, tanto mo devo morire, chi se ne fa. Nel frattempo lui, il cane gli combina cose, lo comincia a sfruculiare, a tentare, sfruculiare, lo so, non è un termine che a te piace. No, che non so cosa significa. Lo va a pungere nelle cose che per lui sono più, lo va a sfottere, cioè capito, ti istiga a fare qualcosa. Ah, ok. Cioè, dice non essere così passivo. Ti sfruculia, dice dai, okay. muoviti, dai, cioè, fai qualcosa, però lo fa in maniera con ironia, con presa di culo parecchia, e quindi uno non se lo aspetta da un cane che tra l'altro per lui è un'allucinazione. In effetti, e no. Quindi all'inizio lo prende un po' così, lo lascia andare, non c'ha tutta sta voglia di ribellarsi, di riprendere in mano la sua vita. Ma poi? Arriva la sorella, al che lui chiede, scusa ma... quelle medicine che mi hai dato, perché la sorella arriva la mattina dopo quando lui è ancora vivo, si risveglia, è ancora vivo, non ha non avuto se effetti. Lo spiega. Sì, non se lo spiega, dice come mai, solo le allucinazioni. Allora parla con la sorella quando arriva, che tra l'altro è incazzatissima perché gli ha trovato un impiego, lui doveva andare a fare il colloquio di lavoro e lui non si è presentato perché nel frattempo si faceva il miscuglio di cose, e lei gli confessa che in realtà il farmaco che gli aveva dato era una medicina placebo. Sì, placebo. quindi lui ci rimane come al cavolo. Cioè, povero. E allora... cioè, lui voleva pure suicidarci con lo zucchero. Esatto. Cioè, ma allora l'allucinazione da dove arriva? Cioè, non è un'allucinazione. E questa cosa non si spiega nel... almeno io ho visto il primo episodio, perché sta uscendo ora in America. Quanto sei avanti, Pietro? Sono avantissimo, ragazzi. E quindi cosa succede? A quel punto lui comincia e dice: che se ne frega che è un cane parlante, io gli do retta. Bravo. E comincia, cioè, vorrei vedere se tu vedi un cane che parla e dici: mo non gli do neanche retta. No, perché tutti gli altri lo vedono, ma come un cane normale. Solo tu, tu che sei Ryan, lo vedi. Tra l'altro, sai chi fa Ryan? No. Elijah Wood. Questo nome non mi giunge. No, nuovo. È nuovo. No, qui non c'è, mi sa. No, te lo dovrai vedere. Ah, quello parte. È il cane. Aspetta. Cioè, comunque, ora ho capito. Credo il cane sia quello che fa Spider-Man, forse. Può essere. Dovrebbe essere lui. Quello che ha fatto Frodo, forse. Non mi ricordo. Comunque, lui. Ok. Insomma, e questo è Wilfred. È quindi un'indagine introspettiva con toni allo stesso tempo comici, simpatici, divertenti. En passant. En passant, così, giusto per. Se ve la volete guardare. Almeno dategli al pilot almeno il primo episodio, guardatelo. Se poi vi piace, vi intriga, continuate. Altrimenti pace. Altrimenti smettete. Quanti consigli diamo? Importanti, tra l'altro, no? Prima di mandare un pezzo, ricordiamo a tutti che se volete partecipare al quiz dovete contattateci per il nostro quiz. Come sempre daremo in premio se vincerete. E come è chiaro a tutti, noi chiaramente saremo severissimi alle domande, non dando mai un aiuto, come tutti quelli che ormai ci ascoltano sanno benissimo. Noi mai aiutiamo, mai. Mai. Non è mai successo. Quindi aggiungete gli spacciaserie tutto attaccato, tutto minuscolo su Skype, cercateci, aggiungeteci, noi accetteremo la vostra amicizia. E vi chiameremo e faremo il quiz. Perfetto. Mi raccomando, non abbiate paura, forza. Ce la potete fare anche voi. Che ancora sono soltanto. Mancano 2 settimane. Cioè, con questa 3 settimane. Per vincere la tazza virtuale, non più virtuale, esatto. Ma pur sempre virtuale. Perché poi per l'anno prossimo ci saranno altri fantasmagorici premi. Questo lo dici tu. Secondo me non arriveranno mai. Però magari arrivano. Chi lo sa? Ma che ne sai? Magari. Cioè, l'anno la tazza prossimo. Ho fatta io la tazza. Perché magari posso fare anche qualcos'altro. Ma sei sempre a super impegnato. Ma non. Ma prendiamo sì? Di un ciancio. Okay. Mandiamo un pezzo di un gruppo che esiste da 15 anni. Ma leggo bene? Esiste da 15 anni e non lo conosce quasi nessuno. È una vergogna, perché loro sono veramente bravi. Ma ci sarà un motivo se non lo conosce qualcuno? Allora, ascoltateli, poi mi direte alla fine del pezzo se ne valeva la pena oppure no. Questi sono i Deus con Little Arithmetics. 2 più 2. And... Ma, Ma piace. Oh. Ammettiamo che dovete, piace. Dovete ammetterlo. Ho dei gusti fantastici. No, no, scherzo. Però, nel senso, di solito non piace a nessuno la roba che ascolto. Quindi io la impongo in radio. Così qualcuno capisce finalmente quello che ascolto. Capisci che fa senso. Schifo la musica che ascolto. Dai. No, come non è vero. Mi piace. Effettivamente è una bella colonna sonora. Ah, vai, che bello. Che anno, signore? Dai, rimetti il tappeto. Ok. Tocca a te. Ma cioè, stiamo andando come treni, cioè proprio veramente di tutto abbiamo parlato stasera. Siamo bravi, parliamo di tante osse, no? Che poi verranno affrontate con calma. Forse. Vale, forse, boh, chi lo sa. Se ci gare. Allora, la serie di cui voglio parlare, cioè già il titolo dice tutto, per quello dico alla fine. Ah, ok. Cioè, nel senso, ho scoperto qual è leggendo sul tuo Mac. Cioè, uno leggendo il titolo già sa già capito storia, di no? cosa più o meno. Invece no. Come no? Ah, perché non... sì. Ah, perché tanto uno lo sai. Ma cosa? Io l'ho vista. Ah, cioè, pure. Ho visto la prima stagione. Poi, siccome, boh, a me non mi ha... Vabbè, diciamo che è tranquilla. Cioè, non è una di quelle serie che dici... Ah, no, aspetta, voglio vedere la prossima puntata. Come altre, di cui parleremo a breve. Però si lascia guardare. Ho capito qual è l'altra di cui... Tra l'altro Mario stava chiedendo di quella lì, credo, di cui stavi dicendo tu adesso. Che la stiamo guardando insieme. È bella, ve l'ho consigliata io. Non poteva che essere fantastica. Veramente a me ma consigliava Sebastiano e Claudio. Ma Sebastiano e Claudio, non io. Però vabbè, io avrei potuto, perché l'ho vista dall'inizio. Comunque come è uscita. Ne parliamo un dopo. Un attimo, fatemi spacciare quello che è giusto. Vai. Allora, la serie di cui voglio parlare adesso è Merlin. Ma come hai detto, lo dice alla fine. È un bel buon motivo. L'hai detto. Vabbè. Merlino. Esatto. Quindi di cosa parlerà mai? Della spada della roccia. No. Re Artù. I cavalieri della tavola quadrata. No. Avevo fatto qualcosa di diverso. Era quello, la cosa diversa. Ah, parla di Mago Merlino da giovane. Young Merlin. Infatti, come si chiama? Nella sigla? Mm-hmm. Si dice il destino di un grande regno è sorretto sulle spalle di un giovane ragazzo. Il suo nome Merlino. In inglese fa molto più figo. The destiny of a great kingdom rests on the shoulder of a young boy. His name Merlin. Molto pomposo. E in pratica racconta le vicissitudini di Merlino alla corte di Re Artù. Però, cioè, Re Artù è ragazzo anche lui. Al trono c'è il padre, Re Uther, che ha bandito che ha bandito la magia. Perché per colpa della magia sua moglie è morta. Come? Come mai? Dando alla luce il figlio. Almeno qualcosa di buono è uscito. No, non è sì, buono. Sì, no, è buono. Cioè Artù è un po' spocchioso, ma alla fine... Sì, è vero, io non ho smesso di guardare perché era troppo... Lui è un po'... Se la tira un po'. Esatto. Quelli così... Sanno. Ma un personaggio, Ma mi sta... Cioè, oddio, c'erano alcuni episodi in cui lui si salvava un po' di più perché trovava un lato umano in tutta questa sua spocchiosità. Però, facendo le somme... Non quadra. Sì, non mi tornava di continuare a guardarlo. E quindi... Poi, comunque, però, la cosa interessante di questi film sono i ruoli che ricoprono le varie persone. Perché uno non se l'aspetta. Cioè, uno ha in mente, no, un po' di ruoli. Tipo Ginevra. Chi è? La gnocca. Sì, ok, va bene. Scusami, tu mi chiedi queste cose e uno risponde onestamente. Chi ti aspetti come Ginevra? La moglie di Re Artù. Vabbè, ma là è giovane. Quindi una nobildonna. Invece no. Come? È una serva. Nye. E è la serva... Di chi? Di Morgana. Tu sai chi è Morgana. Morgana, che poi non sei sto granché. L'ha capita solo uno questa citazione. Però è tratta da una canzone degli Offlaga Disco Pax. Ma che musica. Io torniamo al discorso di prima. Ma che musica. Guarda, non l'ho messa nella playlist, ma prima o poi te la metto. Perché è una musica strana. Gli Offlaga Disco Pax fanno... Sì, perché cioè, già il nome del gruppo era un attimino... È un recitativo, diciamo. Con dell'accompagnamento sotto però. Tipo rap. No, perché è recitato. Non è rap. Yeah. No, è proprio Quindi è parlare su una musica di sottofondo. Più o meno, perché non è proprio solo semplicemente... Insomma, vabbè, okay, ma torniamo a Merlin. Stavo dicendo, Morgana, che è la cugina di Artù e che vive a corte. mm-hmm. E che tu ben sai che poi Morgana e Artù non saranno acerrimi nemici. Acerrimi. E Merlino chi è? È un garzone. Ah. È lo sguattero. Bello. Del medico di corte. E quindi il medico lo fa studiare. Il medico lo fa studiare perché il medico è la solita storia poi alla fine. Però è divertente, è molto simpatico. Alla fine ha molte uscite anche molto proprio comiche. C'è questa relazione fra Merlino e Artù. Merlino è lo sguattero, il cervo, e Artù è il principe, figo. Cioè il figo. E sono molto divertenti spesso, perché poi Artù in fin dei conti è un po' imbranato. Cioè, fa sempre il figaccione, poi il primo cavaliere va lì, uccido tutti io, però poi alla fine spesso inciampa, mettiamola così. Cioè, giusto per dire qualcosa. E no, è molto divertente. Questo è quanto. Ora è finita la terza stagione. Addirittura, ne ho fatte altre due dopo quello che ho smesso io. Sì, vabbè, a breve. Se non avete altro da fare, guarda, io, cioè, secondo me, vista la prima, insomma, non è che poi abbia questi elementi di novità sostanziali. Voi, come sempre, se vi capita, vi guardate il pilot, le prime due puntate, se vi garba, poi continuate. Ve la continuate. Bene, si chiude qui il concorso, perché sono le 9:20, abbiamo promesso fino alle 9:15. E il pezzo che vince questa sera è Ahimè o Ai Te? O Ai Te o Ai Qualcosa. È un pezzo bello. Cioè, detto così, è come fare sì, come no. Simpatica. È sinceramente bello. Forse un po' lentuccio. Cioè, nel senso, è un po' moscio. Però l'avete scelto voi, a voi garba. A me, io le ho messe perché comunque entravano nella mia playlist personale di quest'anno. Per cui ti piace? Sì, a me sì. Però magari a gente che sta a casa dirà, ecco, la solita cosa pallosa, deprimente. Invece non è così, ascoltatela. Bon Iver dal vecchio album, cioè il secondo, e con Ree Stax. Ed eccoci qui, siamo tornati. Questo è sempre www.radiocicletta.it. State ascoltando sempre gli Spacciaserie. E quest'oggi stiamo dando consigli per l'estate. Mentre, giustissimo. Ecco, il mio cococò si è ripreso dalla masticazione rapida, veloce, che lo stava portando all'intossicazione, allo strangolamento. Bene, di cosa parliamo adesso? Questa volta tocca a me, te la dico io. Vai, parliamo. Come già abbiamo fatto prima, ripeschiamo il filone legal drama. Cioè no, io sarò allora, fissato. Ma anche tu sei fissato. Ti spiego. No, era da un po' che non andavano. Che non andava più questo filone. Avevano smesso. A favore dell'ospedaliero. Sai, tutti gli House, i Grey's Anatomy, i Nip and Tuck. Partite e cominciate dal grande capostipite, che era Yar. Lo sapevo, inutile che fai il saccente. Che ha lanciato quale attore? Giorgio. Ciao Giorgio, se ci stai ascoltando, ti salutiamo. Che si è mollato. Meglio, mi stava antipatica lei. Cioè, non perché, cioè, non me frega niente di Giorgio, né di lei. Anzi, lei mi sta proprio sulle scatole. Sulle scatole, esatto. Comunque, on the boxes. Bene, parliamo di Fairly Legal. Cioè, legal anche nel titolo. Ridillo che non ho capito. Fairly Legal, cioè giustamente legale. Che cosa è questa cosa? Cioè, allora, secondo me è un telefilm sui diritti d'autore. No, innanzitutto c'è una protagonista. Contro la pirateria. C'è una protagonista. Lascia stare cavolate. C'è una protagonista che è la fine del mondo. io ti pregherei di cercare una sua immagine. L'ho già cercata perché sono avanti. Lei si chiama Kate Reed. E a chi è in chat adesso gli ho appena mandato, cioè, in realtà link. Non si chiama Kate Reed. Cioè nella fiction si chiama Kate Reed. Il suo nome è vero da attrice di origine iraniana. Quindi già questo vi dovrebbe dire che è una gran bella figliuola. È Sara Shai. Con l'H, Sara? Sara con l'H e Shai con due H. Allora è interessante, sicuro. Cioè di solito le donne con l'H sono interessanti. Se hanno l'H, l'aspirazione sale. Bene, spero che vi sia arrivato il link. Inef ha già provato. Vorrei vedere. Insomma, c'è lei che è famosa per aver fatto anche qualche un ruolo in The Hell World. Mm-hmm. Tu l'hai visto già? Sì. Io no. E insomma, cosa fa Kate Reed? Chi è Kate Reed? Quando? Kate Reed era un avvocato. Perché era? Dico era? Perché ora non lo è più, perché ha scelto di aprire un bar. No, rimanere sempre nell'ambito legale, ma diventare mediatrice. Per chi non sapesse qual è la differenza tra le due cose, viene spiegato nel pilot. Okay. In pratica, l'avvocato applica le regole, le leggi. E quindi cerca nelle leggi la sua via per arrivare al punto. Ok. A quello che è il suo scopo. Però spesso questa cosa è molto pericolosa ed è molto stringente come logica. Quindi lei si reinventa lei stessa come mediatrice. Ovvero il mediatore è colui che non usa le leggi. Cioè, va contro la legge. Non è che va contro la legge. Viene usato prima di arrivare in tribunale. Dice, è tipo il giudice di pace. Per non andare in tribunale, mm-hmm, tu prima vai dal mediatore e vedi se riesci a trovare, a conciliare un accordo così. Capito? Sì. E quindi stasera di che parla? Cioè, allora, no, perché detta così mi sa un po'... È molto molto molto carina. Perché? Ma lei, se l'abbiamo capito, la serie stiamo anche parlando. Anche la serie è una commissione immateriale. Insomma, anche la serie è carina. Intanto noi siamo al buio qui, volevo dire. Però è molto bello questa atmosfera. Ci fosse qui anche Kate Reed alias Sara Shai, sarebbe molto più bello. Però ci dobbiamo accontentare di noi due, che purtroppo qui al caldo stiamo sudando come dei... Maialini. Il buio. Ma noi ci possiamo pensando di sentire fresco al buio, ma in realtà è... Vabbè, funziona. Un po' funziona. E come funziona? Lei è particolare, cioè nel senso, non è una sempliciotta. Lei lavora nello studio del padre. Pure era avvocato, è morto. Adesso è morto. E il padre si era messo con un'altra che lei odia. La matrigna. E lei ha anche un fratello. Il personaggio più simpatico è il suo assistente, mm-hmm, che si chiama Leo. Leo è un genio. Ora non te lo posso spiegare, se non guardi almeno il primo episodio non lo puoi capire. Perché lui capisce tutti quello che vuole dire prima che lei lo dica. Capisce come accontentarla, come ottenere dei favori senza farlo apposta. Cioè, ma tipo che stanno insieme loro due? No. Leo è solo l'assistente. Sono amici, questo sì. Ma si frequentano? No, assolutamente no. Lei però frequenta il suo ex marito, perché lei era sposata con un giudice. È banale però, eh. Figo anche lui, chiaramente. Però si sono lasciati e ora... Mauro lo rifrequenta. Lei lo sfrutta per ottenere i casi migliori o comunque per... È tutta intrallazzata, no? Lì, okay, come perfetto. Studio serve sempre avere dei contatti. Mi insegni da bravo avvocato. No. Infatti, sì, da bravo avvocato ti insegno dei contatti sempre... diramati, cioè diramare. Insomma, sempre. Lei affronta ste cose al limite dell'assurdo, cioè tipo un professore che ha picchiato uno studente durante l'ora di educazione fisica perché secondo lui stava facendo qualcosa di... Insomma, l'ha sgridato e è stato ripreso. I genitori agiscono contro contro il professore, ma... e lei deve cercare, perché in realtà non è così come sembra, ma io non ve lo posso dire perché altrimenti sarebbe spoiler e io ora ve lo farei sentire spoiler, ma dovrei trovarlo qui nella selva di Jingle. Vediamo se lo trovo. Se lo trovo, eccolo qui. Spoiler singolo. Sta per partire? Sì. Non parte? Spoiler. Parte. Benissimo. Quindi, rimettiamo il tappetino. Sono attivissimo questa sera. E nulla. Ve lo dovete guardare, perché così io posso dire poco e niente. Il pilot è lungo. È di un'ora, vi fa un riassuntone bello, cioè lunghissimo. No, però è bello. Cioè, nel senso, vabbè. Poi le altre puntate sono normali da 40 minuti, come tutte. Però il primo l'hanno allungato un po' per farvi capire proprio bene bene bene bene bene, cioè, bene, bene, bene, bene, bene, bene. Guardatelo, interessante. È interessante. A parte lei è molto interessante, il telefilm è interessante, perché combina sempre questa cosa un po' americana di legare il serio, l'impegnato al leggero. Carino, ma dai, potrebbe meritare. Bene, allora detto io ho detto ciò. Per fare un lancio del prossimo pezzo, vai. Vi posso dire che lei, Kate Reid, sì, è un po' come un leone in gabbia. Perché comunque è ingabbiata dalle leggi. E poi c'ha l'assistente, cose. Si chiama Leo. Appunto, Leo, Lion. E allora, a partire da tutto ciò, dal fatto che le leggi la costringono, la chiudono in gabbia e lei si inventa un altro mestiere, si inventa, esiste per uscire dalla gabbia. Uscire dalla gabbia, io vi mando i Wolfgang con Lions in Cages. In a cages, no, in cages. Siete pronti? Tutti pronti? Bene, sedetevi sul divano perché sta per arrivare Wolfgang, Lion in Cages. Tu dici sempre così. Ma è vero, mi piacciono. Ok, cioè, no, ma ha fatto schifo. Ma proprio schifo. Ma guarda, a inascoltabile. Me no. Ma proprio inascoltabile. No, dai, dai, era bella. No, mi è piaciuta, te l'ho detto. Mo piace. Tra l'altro ti preannuncio che il prossimo pezzo sarà la suoneria del mio cellulare. No, cioè non sto scherzando, sul serio. Quindi non sapremo se stiamo mandando il pezzo, se sta chiamando. No, io avrò problemi perché mi sentirò come se mi stesse sbillando veramente. E ora mi verrà un po' l'ansia, però vabbè, a parte questo, ora che mi metto nell'ottica. Dunque, ora stiamo per parlare della serie rivelazione di quest'anno. The Relation. Tu l'hai vista tutta? No, sono alla sesta puntata. Io sì. La cosa di cui stiamo. La serie. The Dude, come diceva Ugo in Lost. Hey dude. Dunque, fa caldo. La serie TV di cui stiamo per andare a parlare. Non fa caldo lì. Chiamate Mario Politicaz. Mario Politic. È la fantastica. Fantasmagorica. Eccellente. Game of Thrones. Signori, se non l'avete ancora vista, ma perché che ve lo dica fare? Andatevela a guardare, ve la spaccio io. Contattateci. Scrivetemi su tutti i nostri canali che ormai conoscete a memoria, gli spacciaserie, cioè gmail.com, gli nome, spacciaserie cognome su Facebook, gli spacciaserie tutto attaccato minuscolo su Skype, insomma. Oppure sulla chat della cicletta, adesso che siamo in diretta. Adesso ditecelo. Insomma, contattatemi, io ve la spaccio già quei sottotitoli in italiano, se li volete in inglese acchiateveli. Insomma, perché merita davvero la cultura merita. Lo scazzo va trasmesso, va. Questo perché okay, ci manca basta. Marco, ciao, salutiamo questo Marco. Va e andava un attimo, sì, Paccio andava salutato. Comunque, parliamo di Game of Thrones. Visto che tu ce l'hai più fresca, perché l'hai cominciata manco una settimana fa, proprio sabato, quando l'hai cominciata? Venerdì, vedi? Manco una settimana è passata e già sei alla sesta puntata. Ma no, questo per dire che flippa parecchio. Domenica. Sì, in realtà flippa parecchio, soprattutto è una di quelle serie che alla fine della puntata c'è un cliffhanger di quelli spaurosi, sì, e ogni volta dici cavolo, devo vedere l'altro. Cavolo, c'è uno si organizza, no? Intanto le puntate durano un pelino di più, durano 55 minuti. Sì, intanto hai notato che la sigla dura un minuto e mezzo, è lunghissima, però è molto bella, cioè, è lunghissima, è fantastica. E ogni volta cambia, perché... Ah sì? Ah, no, non, non l'hai notato. Perché questo? Io mandavo avanti. Sì, no, no, io mandavo avanti, te spiego perché. Perché quell'altra persona con cui sto guardando... Aspetta, devo rispondere Ines che dice: come questa storia d'italiano? Allora, i sottotitoli in italiano. Noi facciamo i buoni spacciatori. Anche perché Game in of inglese Thrones... con i sottotitoli in italiano. Anche perché Game of Thrones in italiano ancora non c'è. Esatto. Per cui in inglese vale arriverà, la piglia. Forse arriverà. Secondo me che ha avuto, secondo arriverà. Me sì. Comunque ti stavo dicendo che io l'introduzione, cioè come la sigla, ecco, mando avanti perché la persona con cui la sto guardando, tale Mario Politic, che io chiamo Politicazzo perché in realtà è Politicazzo. È Politicazzo. Lui mi dice: ma manda avanti, no, che voglio sapere cosa succede. No, Mario, le cose vanno viste alla giusta velocità. Oddio, che cosa succede? Lanciano monetine, sassolini, non lo so. Comunque, sì? Siamo in pericolo. Probabilmente ci stanno chiedendo di accedere, ora... Ah sì? Aspetta, tu continua a parlare. No, parla tu. Parlo io? Parla un attimo tu. Va bene, tu vai a controllare la finestra se qualcosa... Questo è il radioservizio, signori, per tutti voi all'ascolto. Dunque, Mario Politicazzi dice Game of Thrones. Non è proprio così, però è bello che tu dia questa interpretazione sempre un po' volgarotta alla cosa, come Politicazzi del resto. Cosa? Che è successo? Non c'è nessuno, insomma, ho avuto delle allucinazioni sonore. Avrò visto Wilfred? Ma no. Forse. Torniamo avanti. Insomma, che cos'è questo Game of Thrones? È un po' il Signore degli Anelli, diciamo, come ambientazione. È un'ambientazione strana. Sì, però... Ah, intanto ti stavo dicendo questa cosa che tu ti eri perso, della sigla. La sigla si modifica, i regni cambiano in base all'avanzata dei personaggi. Bello. Tu non te ne sei mai accorto, però sì, si modificano. No, tra l'altro, perché guardatela la sigla, perché... Cioè, è molto anche tecnologica, cioè c'è questa evoluzione delle strutture dei castelli che è veramente fenomenale. Ora, se vuoi, io la sigla te la posso mandare. La mettiamo come tappetino di sottofondo? Ora, se la vuoi di sottofondo, te la metto di sottofondo, se no la facciamo ascoltare. Intanto facciamola ascoltare. Proprio prepara poi proprio a tutto il telefilm, cioè prepara questa esplosione, no? Questa... Bello, mi piace. Sì, poi anche fatta come dicevi tu, appunto, la grafica di tutta la preparazione. La grafica è veramente fenomenale. Cioè, poi io non mi ero accorto che cambiava questo, poi ora ci farò attenzione. Però effettivamente è proprio fenomenale. La rimetto come tappetino di sottofondo. Vai, ancora più tappetino. Okay. Beh, appunto, dicevamo. Allora, la storia. Parliamo un attimo di che cosa per succede. Per semplificare, io avevo detto che era un po' il Signore degli Anelli. Mario mi ha corretto, è il Signore Porno degli Anelli. Perché in effetti c'è un'esaltazione della sessualità che è alla fine è congeniale alla storia. Perché comunque c'entra questa dimensione. Cioè, è tutto storia. Non esistono, mentre in tante serie TV, rispetto alla trama orizzontale, poi ci sono delle varie deviazioni, no? Un po' inutili. In generale. Qui no. In questo tipo di film così, di questi telefilm, c'è il bene e il male, che sì, li capisci, sono contrastanti uno e l'altro. in Game of Thrones no, è tutto più sbiadito, più diciamo pastello come colore, e non ci sono i toni scuri e chiari, c'è questa cosa un po' cangiante che non sai bene quando c'ha ragione uno, quando c'ha ragione l'altro. Poi ecco una cosa che stavamo dicendo con Mario Politik, una cosa che manca è una spezione di avete visto su Game of Thrones, perché da una puntata a un'altra, se uno ti passa già due giorni, già uno non ci capisce più un tubo, perché c'è una serie di parentele, cose che succedono, e vedi dicendo nomi che cambiano, no, non cambiano i nomi, però nomi allucinanti, tutti uguali, che non associa i volti. È complicatissimo, sì, però è fantastico. Cioè, se uno ci entra un attimo nel mentre. Oddio, mi sono spaventato al buio e non ho visto Luca che arrivava. Ciao Luca. Ciao Luca. Sì, sta parlando, non so se voi lo sentite, ha detto che è un fantasma della radio e che infesterà questo luogo d'ora in poi. Intanto con Game of Thrones andiamo avanti. Stavi dicendo, scusa, mi sono un attimo distratto, il patema del fatto che è arrivato Luca. No, che tutti i vari personaggi sono molto complicati e soprattutto le relazioni fra i vari personaggi sono complicatissime. Perché tu scopri che uno è il figlio di quell'altro, che però anche il figlio di quell'altro ancora, che poi è parente, esatto, di quell'altro, che tu credi... Anche i nomi delle famiglie, fa molto Guerra delle Due Rose, i Lannister che assomigliano, sì, ai infatti... Lancaster e via dicendo. Sì, è molto... E io, per fermarti qui e darti spazio per pensare, mando la sigla cioè la suonetta del mio cellulare. Ah, ok, la perché non l'avevo ancora mandata. Bene, signore e signori, Ryan Adams and the Cardinals con Fix It. Questa era Fix It di Ryan Adams. Ma tu ti sei toccato così per vedere... No, mi sta vibrando il telefono, esatto. Chi mi chiama? Fatto per quello. Comunque, allora... Ma sto Game of Thrones, secondo me... Io, cioè, per farti un po' un lancio, no? È troppo fatto bene per essere una serie così... Esatto, presa dal non nulla. È campata in aria. Ma che lanci ti fa? Ci sono tre libri. Addirittura è una saga tre. Che è ancora in divenire. La sta scrivendo un certo George Martin. Ah, pensavo George Michael. Tra l'altro è un tipo, sai, tipo Gandalf con questo barbone bianco, queste cose così. Bello il barbone bianco. Perché ho visto un'intervista, cioè lui è andato a fare la presentazione dei suoi libri, in tipo Uzbekistan, un paesino così sperduto, cioè una nazione sperduta dove nessuno ci andava. E invece sono andati degli italiani a intervistarlo, patiti ormai per questa cosa qui. E ci sono le fotografie in cui c'è lui con questo barbone enorme che parla e dice che la saga non è ancora conclusa, ci sono ancora tante cose di cui lui vuole parlare. E lui fa molta tenerezza e simpatia, perché lo vedi lì seduto, bello pancione, con sta barbone. Fa molto russo in realtà come personaggio, in realtà dovrebbe essere americano lui. Ho detto tre libri, sì. Le cronache del ghiaccio e del fuoco si chiama la saga, però in Italia sono stati spacchettati in 9. E infatti sapevo che erano tanti. In Italia sono 9. Quindi per ora io dico, ma perché c'è l'uno e il libri? Due che sono il primo libro in inglese americano, poi 3, 4, 5 che sono stati uniti, e poi 6, 7, 8 e 9, cioè, no, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 invece è il terzo. È una ma cosa perché? Strana, non ma so perché l'hanno fatto così. In Italia comunque, siamo però, strani. Questa prima stagione, perché sono 10 episodi e è finita la stagione, giusto? Yes. È tratta tutta da... Penso il primo. Il primo libro americano? Sì, credo di sì. Ok. Lo sto leggendo adesso, però sono ancora indietro. Sono 784 pagine. E tu sei alla pagina 10? No, 75, credo. Ah, beh, insomma, un poco. Un decimo l'ho letto, diciamo. Ok. Bene, di cos'altro possiamo spoilerare su questa serie, che però, di cui poi probabilmente l'anno prossimo parleremo più diffusamente in una puntata dedicata. Ecco, vediamo, che ne so, ad esempio, come comincia. Come comincia? Ah, sì, che sono loro, ci sono dei uomini in nero che vestono il nero. Batman, che sarebbero, vestono il nero. Che sarebbero? Ma i guardiani della barriera. Cioè, barriera, in realtà loro dicono the wall, il muro. Sì. Però in italiano viene tradotto la barriera. Visto che sto leggendo il libro, ora te lo dico. E visto che c'è il barbone, è bellissimo, mandalo in chat, per favore. L'ha già mandato. Mario Politic l'ha mandato in chat. È un bell'uomo, è un bell'uomo. E, che stavamo dicendo, quindi ci sono questi guardiani della barriera che a un certo punto fanno un incontro con i White Walkers. Esatto, con gli estranei, viene tradotto in Italia. Le traduzioni in italiano fanno sempre schifo. Perché i White Walkers devono essere tradotti come estranei? Però vabbè, è così. E, sono una specie di spettri che nascono dopo la morte. Cioè, se uno viene ucciso da un altro White Walkers. Questo è spoilerissimo, tra l'altro. Cioè, sì, cioè mi stai uccidendo. Lo capisci solo tipo all'ottavo episodio. Ecco, mi stai uccidendo, sappilo. Continua comunque, perché tanto. E niente, quando stai, diventi i White Walkers, che sono quasi immortali. Scusate, non sto capendo. Ma sì, ma non ho capito il tuo ruolo qui adesso. Ah, sì, sì, puoi agire, prego, sulla, prego, cosa di se, destra. Se vogliamo possiamo accendere la luce in modo tale che tutti ci capiamo di più quello che sta succedendo adesso. Tu parla, vado ad accendere la luce. Ecco, sì, cosa devo dire, certo. Dunque, ci sono questi White Walkers. Ma perché c'è il tuo rapporto con i tuoi? Potrei piangere, no, meglio di no. Continuiamo a parlare di Game of Thrones, che mi trovo meglio. Dunque, ci sono questi White Walkers che uccidono questi guardiani, tranne uno che riesce a salvarsi e scappa. Solo che tu, una volta che indossi il nero, una volta che diventi guardiano della barriera, non puoi scappare. Cioè, è scritto, vigliaccheria. Cioè, è vigliaccheria, cioè tu non lo puoi fare. Una volta che sei guardiano, devi tornare sempre lì alla barriera. Neanche se dalla mamma. No, non esiste più famiglia, tu non hai famiglia. La tua famiglia sono i guardiani della barriera. Quelli in nero, un po' dark. E sono neri. E insomma, questo è l'inizio. Perché che dura una 5-10 minuti di spezzone, no? Che è molto fatto col silenzio. Questo ambiente bianco. Stiamo parlando della fotografia di Game of Thrones. E effettivamente è favolosa. Cioè, loro... Sai dove. No, non lo so. Ora ve lo dico. Dove. Voi capite quando io faccio il gesto così, no? Esatto. Quello con la mano che illumina, tipo Iaplecchi sarebbe a Bari. Apri gli occhi. E tu vuoi dire dov'è? Ora che lo so, lo so. Ecco, nulla, quindi la fotografia è molto molto bella. Tra l'altro loro hanno dei problemi, l'HBO che produce questa serie TV ha dei problemi di budget. Infatti questo si capisce quando ci sono le scene della battaglia. Le scene della battaglia in realtà non ci sono. Non vengono girate perché sarebbero uno spreco e sfregolio di denaro sparso lì per il campo di battaglia che loro non hanno. E quindi loro usano degli artifici per ovviare a questo problema. E niente, allora, visto il successo di pubblico, si spera che abbiano più soldi e che possano girare, infatti, qualche speriamo, bella battaglia l'anno prossimo. No, volevo dire, giusto perché mi era venuta a me la curiosità di dove sono girati. Gran parte a Malta. Addirittura? Sì. Ma la neve a Malta dov'è? Vabbè, magari quella è finta. The Winter. The Winter is Poi coming. C'è il Regno del Nord. La contea di Down nel Regno Unito, in Irlanda del Nord. Per rendere le terre del nord, infatti, magari lì non neve può c'è. Essere il castello di Castleward. Dov'è? E non, questo non si può sapere. Non sai dov'è Castleward? No, mi sfugge. E il parco forestale di Tollymore, che è? E anche questo non si sa. E vabbè, pace. Insomma, noi diciamo che la puntata finisce qui. Abbiamo detto, questo... abbiamo sparato un sacco di serie TV come consigli per l'estate. Sì, consigli per l'estate. Quindi, allora, avremo, ricordiamolo. Chi avremo? Avremo anche il podcast di questa puntata, si perché spera, ce lo siamo ricordato questa se volta. Se Graziella lo produce, noi ce l'avremo. Per cui, se non vi ricordate qualcuna delle serie TV che vi abbiamo proposto questa sera, voi vi riascoltate il podcast e ve le guardate e ve le sentite. E poi guardano il Mixcloud lì davanti. Sì, se le riascoltano le ritrovano. Così potete risapere tutte le... Ma 12, 13, tante ne abbiamo dette. Non lo so, non le ho contate, sinceramente. Però tante ne avevamo preparate, preparate. Ne avevamo ancora altre da proporvi, ma sarà per l'anno prossimo, non lo so per quando. Quando faremo un'altra puntata così di consigli spassionati e leggeri. Tipo prima dell'inverno si potrebbe fare nelle serie TV invernali. Consigli per Natale. Allora, adesso ricordiamo che lunedì, ecco, sì, abbiamo questa grande ospitata nella trasmissione dell'anno del Di La Bicicletta, che è i politicazzi che hanno fatto solo 6 puntate, ma noi all'ultima ci saremo. Chiudono in bellezza con noi due. Con noi due, che proporremo una lista come ormai fanno tutti gli ospiti che vanno, certo, da loro. Forse, ecco, due, io ora ci provo a sgomitare e fare, a sgomitare e mettere per nel caso lista. Contattami, io partecipo all'altra lista. Vai. Bene. E, quindi allora sarebbe quanti? Lunedì sera alle 23 sempre su www.radiocicletta.it. Esatto, vedo che sei tutto. Cos'altro? Salutiamo tutti, io saluto perché la prossima puntata non ci sarò, ma ci sarò a quella ancora dopo, che sarà l'ultima. L'ultima, quella con Marco, che parlerà di Lost, la seconda parte che non, sì, insomma, sarà una puntata conclusiva un po', sì, prima dell'estate. Ah, saluti, baci, abbracci, è stato bello, sì, ci prendiamo mezz'ora puntate per salutare, salutiamo tutti, sì, sì, proprio tutti quelli che, cioè, ci sono stati, salutiamo, cioè, se Luca, vi ricordate le prime puntate che salutavamo sempre, tutti ci dicevano ah ma salutate troppo, faremo una puntata, lo rifaremo, okay, una puntata di saluti, sappiatelo. Va bene, detto ciò, mando l'ultimo pezzo. Mandiamo l'ultimo pezzo. L'ultimo. E poi cosa c'è dopo di noi? All 90s long. Ah, come lo dici bene. Io mi incarto sempre. Il mio inglese è fluently. Va bene, ma l'ultimo pezzo è il famosissimo Rebellion, tra parentesi, Lies, di Arcade Fire, che ormai sono proprio famoso. Ma dai, se non conosci manco gli Arcade Fire, su, dai. Ascolti musica strana. Time we could be walking around. Love, love, love.